24. Storie di star. Qual è la canzone che più ti somiglia? Sicuramente Bocca di Rosa. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scriverle due categorie di persone, i poeti e i cretini. Quindi io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore. Sarebbe stato molto bello anche invecchiare con lui, perché chissà che sorprese, anche da un punto di vista creativo proprio. E chissà come avrebbe vissuto. La mia canzone più bella, se permetti, devo ancora scriverla. Sempre a rompere le scatole, con una vanità terribile. Lui la cercava disperatamente. Complimenti. Era anche bellissimo, le aveva tutte queste donnate. D'Andrea era un intellettuale, non era solo un cantastorie, era un vero intellettuale. La musica di Fabrizio piaceva sia all'intellettuale snob chic che all'operaio che usciva dalla fabbrica con le mani sporche di grasso. La canzone è una vecchia fidanzata con cui passerei ancora molto volentieri buona parte della mia vita. Un cantautore, un poeta, un intellettuale, un uomo contro che, come dice lui stesso, si muove in una direzione ostinata e contraria. Anche questo è Fabrizio De André, uno dei grandi protagonisti della musica italiana, scomparso l'11 gennaio del 99 a soli 59 anni. Quella che vi vogliamo raccontare appunto è la storia di un poeta del suo tempo. Ma nella storia di Fabrizio c'è anche una pagina violenta e drammatica. Il 27 agosto del 79 Fabrizio De André e Dorighezzi vengono sequestrati dall'anonima sarda. Qui, isolati a 15 chilometri dal primo centro abitato, Tempio Pausania, abitavano Fabrizio De André e Dorighezzi, sequestrati dai banditi di notte. E se vai all'hotel Supramonte? L'hotel Supramonte sono 2,5 metri per 1,5 quadrati. Triangolare di bosco dalle parti della Gallura occidentale. Dopo 4 mesi di collaudo, dove vivevamo in mezzo vetro, credo che ormai la cosa fondamentale sia quella di rilevare che stiamo bene insieme. Fabrizio De André e Dorighezzi vengono liberati pochi giorni prima del Natale del 79. Per la loro liberazione è stato pagato un riscatto di oltre 550 milioni di allora. Ma quell'esperienza naturalmente segna in modo indelebile De André, non solo come uomo, l'abbiamo sentito, ma anche come artista. Fondamentalmente i veri prigionieri continuano a essere i sequestratori, non noi. Tanto è vero che noi siamo usciti, loro sono ancora dentro. E credo che se dovessero uscire lo faranno per prendersi una pallottola. Dove fiorisce. Io era da molto tempo, da quando avevo 18 anni me ne ero andato via di casa, che nessuno si occupava di me in maniera così diuturna e continua, imboccandomi addirittura con i pezzettini di salsiccia, di carne, insomma, che mi venivano dati attraverso questo buco di questa maschera. Insomma, una persona che si occupa di te per 24 ore su 24 è una persona che cui tu dedichi una certa attenzione, come corrispondenza a quella che dedica lui a te. Ed ogni cane abbaia. Il suo amore per la Sardegna e l'attenzione verso le minoranze politiche ed etniche come gli indiani d'America lo portano nel 1982 ad aderire a Sardegna e Libertade, l'assemblea costituente dei gruppi indipendentisti sardi. Così ne parlano lo stesso De André e Michele Serra. Mi sembra significativo parlare e cantare oggi questa canzone con riferimento a questo massacro da parte di questo colonnello Civington dell'esercito americano di una tribù di Cheyenne sul fiume St. Creek, perché fra poco più di un anno tutti noi occidentali organizzeremo delle grandi feste, delle grandi bevute in onore della ricorrenza della scoperta dell'America. Quello stesso giorno, il 12 ottobre del 1992, sarà una data che un grande popolo come il popolo indiano d'America ricorderà come il suo più grande lutto nazionale. Il fiume è qualcosa di profondamente vivo e anche di quotidianamente vivo, che in ambedue le canzoni poi si trova sovraccarico di morte, no? Trasporta soldati, i cadaveri dei soldati e non più i lucci argentati nella guerra di Piero, e addirittura fa da letto funebre dei bambini in fiume St. Creek. Dormi sepolto in un campo di grano. Essere contro la guerra penso che per Fabrizio significasse essere a favore della libertà delle persone di autodeterminare la propria vita, insomma, senza dover indossare un uniforme. Io della guerra ne ho parlato molto, ne ho parlato soprattutto nella guerra di Piero attraverso i racconti che me ne faceva mio zio, il fratello di mia mamma, che si fece tutta la campagna d'Albania. Durante la guerra, la famiglia De André è costretta a rifugiarsi nelle campagne di Rivignano d'Asti. È un periodo fondamentale per la formazione di Fabrizio e soprattutto è determinato dall'incontro con lo zio Francesco, scampato miracolosamente alle camere a gas nei campi di concentramento, e che influenzerà quelle figure dolenti che popoleranno la gran parte della produzione di Fabrizio De André. Così Paolo Villaggio. E i nostri genitori erano molto amici, e tutte le estati si andava a Boccol sopra Cortina d'Ampezzo. E lui aveva 4 anni, e ricordo che già a 4 anni era un dissidente, parlava come un facchino, e io un bel momento l'ho sgridato. E lui se lo ricordò sempre. Se ti ricordi quella volta che mi hai sgridato, vabbè, ma parlava in una maniera incredibile. Una passione, quella per la politica, che accompagnerà Fabrizio De André per tutta la vita e lo porterà anche ad aderire alla Federazione Anarchica di Carrara. Su Radio 24 stiamo raccontando Fabrizio De André, riprenderemo subito dopo la viabilità. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... Mix 24, storie di star. Rieccoci su Mix 24 con la vita e la musica di De André. È il 1957 e Fabrizio ha solo 17 anni. Ancora le parole di De André e poi Paolo Villaggio e Michele Serra. È già scoppiata, chi ci aiuterà? Da quando frequentavo i circoli libertari di Genova e di Carrara mi sono schierato in maniera precisa e da allora non ho mai più trovato durante la mia vita nessuno schieramento che dal punto di vista sociale e morale mi garantisse qualcosa di meglio. In una classe sociale che era destrorsa eravamo dei biechi intellettuali di sinistra, anzi lui addirittura era a sinistra del Partito Comunista Cinese, diceva di essere anarchico. Io penso che Fabrizio si definisse anarchico individualista soprattutto perché non amava l'ordine costituito, non gli interessava il punto di vista del potere, gli interessava il punto di vista delle singole persone. Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci, beh, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio. Fabrizio è stato tra i cantatori italiani quello che ha saputo attingere alle forme più differenti di musica, dalla ballata folk nordamericana, la poesia medievale francese, Brassens, Brel. Dal punto di vista artistico è stato sicuramente un ricercatore sfrenatamente libero. Ho avuto dei punti di riferimento culturali precisi che a loro volta avranno avuto sicuramente dei riferimenti in questi punti luminosi della storia dell'espressione umana. Io credo che l'uomo potrà anche conquistare le stelle, ma penso d'altra parte che le sue problematiche fondamentali sono destinate a rimanere le stesse per molto tempo, se non addirittura per sempre. Dove sono elle che... Nel 1971 registra il suo 5° album, Non al denaro, non all'amore né al cielo, ispirato al libro di Edgar Lee Masters. Così la scrittrice Fernanda Pivano. Edit consumata da uno strano male. Era super proibito quel libro in Italia. Parlava della pace, contro la guerra, contro il capitalismo, contro in generale tutta la carica del convenzionalismo. Era tutto quello che il governo non ci permetteva di pensare, non dico di fare, di pensare, e mi hanno messo in prigione e sono molto contenta di averlo fatto. E lui infatti si è messo lì tranquillo con la sigaretta in mano naturalmente e ha cantato una di queste canzoni dello Springer. Io in bambolato non sapevo neanche cosa stava facendo, mi sembrava di sognare. Allora lui vuole che la canti di nuovo, mi ha detto, Madonna. Dico, io vorrei che lei la cantasse sempre, che si mettesse lì dove adesso ci restasse per tutta la vita a cantarmi sempre la stessa canzone. Allora lui si è messo a ridere, ha capito che era in un ambiente favorevole. In Spoon River, ma in generale, Fabrizio aveva simpatia per i truffatori, per i fannulloni, per chi non riusciva a stare dentro il binario. Tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. La canzone dell'invidia per eccellenza, dell'invidia della piccola gente, è Bocca di Rosa, in cui la giovinezza, la bellezza, diciamo la gratuità dell'amore, scatenano una specie di violenta reazione sociale. Qual è la canzone che più ti somiglia? Sicuramente Bocca di Rosa. Ecco, ma sicuramente lo scenario da cui attinge De André è proprio la Genova degli anni 60 e 70, dove è cresciuto e si è formato. A raccontarlo è lo stesso Fabrizio in un servizio realizzato da Mix nel 1982 e poi Mauro Pagani. Vengo da Amburgo, vengo da Francoforte, vengo dalla Sardegna, ma vengo soprattutto da Genova. Genova che ci nasci, ci vivi fino a 20 anni. Poi a 20 anni cerca di trovare lavoro e soprattutto quando il tuo lavoro non è quello di fare il giovane di studio da un avvocato oppure da un ingegnere ti rendi conto che è difficile lavorarci. Allora te ne vai e dopo che te ne sei andato cominci a rimpiangere. Il padre di Fabrizio fu direttore della Nazione del Resto del Carlino, che erano di proprietà di Attilio Monti, quando quei due giornali erano i due giornali più a destra d'Italia, in qualche modo tra la stampa non schierata. Quindi in realtà credo che il conflitto tra Fabrizio anarchico e un padre schierato in quel modo sia stato molto forte e significativo. Poi il confronto col fratello Mauro, che invece fu paterlineare in qualche modo. Mi sono accorto che in casa era quello che valeva meno di tutti. Cioè, mio padre ha laureato in filosofia, mio fratello che se prendeva qualche cosa al di sotto del 30 lode faceva il muso per 2 giorni. È normale che in una famiglia del genere uno, anche perché ci viene allenato, no, diventi competitivo. Allora probabilmente con la volontà di emergere ho scelto un'altra strada, che è stata poi quella della chitarra. Per dimostrare a me stesso, ma prima di tutto forse ai miei genitori, al mio fratello medesimo, che io qualche cosa valevo. Aveva in comune anche con me il complesso del fratello. Suo fratello Mauro era un genio, era serissimo, era il primo di tutta la scuola. Mio fratello gemello, poi Piero, era il primo addirittura di tutta la città. Quindi io e lui eravamo veramente rassegnati ad essere le pecore nere della famiglia. Io ho una grande stima di mia madre, è stata sempre il vina vil della nostra famiglia. Se non ci fosse stata lei o fosse mancata lei, sarebbe mancata la colla, bro. Ci saremmo disuniti tutti quanti. Si pensa a lui come una persona triste, era di un'allegria esagerata, smodata, era molto divertente, era molto simpatico, amava il paradosso. Era sempre mai d'accordo, era contro, sempre contro tutti. Gli bastava un'occhiata per sapere qual era l'unica cosa che ti avrebbe mandato in bestia quel giorno, perché ovvio che tu sapevi com'era, quindi arrivavi in studio e facevi gli esercizi spirituali. Io oggi sarò buono, non accetterò provocazioni, qualunque cosa mi dicano io sarò di buon umore. Arrivava lui e ti diceva l'unica cosa che ti faceva incazzare subito. C'è tutto un repertorio di Fabrizio che è indecente, quindi non ha avuto la possibilità di essere inciso da qualche parte. È possibile che la sua passione per la vita sregolata, per i vicoli, per la vita minuta della Genova di Angiporto, fosse anche, derivasse anche da un suo fortissimo bisogno di uscire, insomma, dal suo punto di vista di nascita, no? E da questo punto di vista Fabrizio è stato il classico traditore di classe. Quella notte che cosa successe esattamente in Via del Campo a Genova? Mi sono invaghito di una persona che lì per lì avrei potuto chiamare Clara o Sabrina. Vediamo, si è scoprito dopo un po' di tempo che si chiamava Giuseppe. Mi ricordo di aver contribuito finanziariamente, per quanto mi era possibile allora, a questo suo desiderio, che era quello di diventare finalmente donna. C'erano dei grossi personaggi che giravano nei vicoli di Genova. E Manerini era un altro di questi personaggi che viveva questa vita, in fondo, divertente, Fabrizio anche. Così nelle parole di Gianfranco Reverberi, insomma, per forza, per protesta, lo dicevamo anche prima, di una famiglia e di un ambiente conservatore borghese, Fabrizio va a vivere nei Carruggi di Genova con il poeta anarchico Riccardo Mannerini. De André ha 19 anni, con Mannerini avrà una vita tanto sregolata quanto creativa. Con lui, infatti, scriverà il suo primo concept album, Tutti morimmo a stento. Questo tuo ultimo lavoro non è una serie di canzoni, ma è piuttosto un'opera, una cantata, diciamo, e che parla di? Parla della morte, non della morte cicca, come sette, della morte psicologica, morale, mentale che un uomo normale può incontrare durante la sua vita. Direi che una persona comune, ciascuno di noi forse, mentre vive, si imbatte diverse volte in questo genere, in questo tipo di morte, in questi vari tipi anzi di morte, prima di arrivare a quella vera. Così, quando tu perdi un lavoro, quando tu perdi un amico, muori un po', tanto è vero che devi un po' rinascere dopo. Era un periodo in cui si fingeva di essere abbastanza infelici, eravamo senza soldi. Però se ci ripenso, forse quello è stato il periodo dell'attesa, l'attesa spasmodica del successo. Aveva questa specie di blocco incredibile, la paura di esibirsi in pubblico. Finché una notte famosa, io e Marco Ferreri l'abbiamo preso quasi di peso, l'abbiamo portata a Viareggio, alla Bussola, e lì forse è stato il momento più importante della sua vita. Cioè ha capito qual era il rapporto che lui poteva avere con il pubblico ed è stato un trionfo inaudito. Ferreri che l'ha portato sul palco e gli ha detto che le pulsazioni del suo cuore erano perfette per salire sul palco, perché lui diceva aiuto, svengo. No, ma noi siamo stati per credo mezz'ora a bussare alla stanza della sua porta nell'albergo per farlo uscire, perché non voleva venire a suonare, era terrorizzato. Tutto questo poi col finale che tutti sappiamo, si è ritrovato sul palco e non voleva più scendere. Era un po' un rullo compressore, faceva fatica a mettersi in moto, ma quando era partito non riuscivi più a fermarlo, no? Passava spianando tutte le persone che gli stavano intorno, nel bene e nel male, perché poi quelle sono persone che con la loro, in fondo con questa mania di precisione che quasi sempre è figlia di ansie dovute a insicurezze, no? Mettono le persone che lavorano con loro nelle condizioni di dare il meglio di sé. E se la gente scopre che sai cantare, cantare ti tocca per tutta la vita e ti piace farti ascoltare. Questi sono i versi che cantava lui, sai. Superata la paura del palcoscenico, nel 74 Fabrizio De André è già un cantautore affermato di successo. Riprendiamo subito dopo la pubblicità. Mix 24, storie di star. Rieccoci su Radio 24 con la storia di un grandissimo della musica italiana, Fabrizio De André. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume sopra una stella. Io scrivevo già canzoni da circa 7-8 anni, ne avevo fatte già una ventina, però non avevo risultati pratici e quindi avevo quasi deciso di finire gli studi in legge per diventare quello che probabilmente sarei diventato, cioè un pessimo avvocato. E a truccare le carte è intervenuta Mina cantandomi la canzone di Marinella, quindi con i proventi si ha io decisi, mi rincuorai e decisi di continuare a fare lo scrittore di canzoni. Suo padre aveva una scuola e lui diceva io faccio il bidello e sai come vivo? Non dello stipendio. E ancora una volta me l'ha detto in pubblico: signori, io vivo con i vuoti delle bottiglie dell'acqua minerale che mi paga mio padre. Suo padre gli pagava l'acqua minerale e lui restituiva le bottiglie, i vuoti, e con quei vuoti poteva venire la sera ad Albisola, al Pozzo della Garritta, a fare il suo show. Cristiano e mio figlio sono nati lo stesso giorno. Beh, Carlo Martello è stato scritto nel novembre del 62, nell'attesa c'erano sia sua moglie Pugni che Maura, mia moglie, erano incinte. La cosa è nata in una maniera curiosa. Lui ha detto: senti che bella questa canzone trovadorica. Papà, papà, papà. E mi ha suggerito, Re Carlo tornava. Io, che sono un appassionato di storia, sono andato a pescare la battaglia di Poitiers nel 732 e ne abbiamo fatto questa specie di cosa abbastanza divertente, paradossale. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Nel 1967 De André e Paolo Villaggio vengono citati per il contenuto osceno di Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. Un pretore di Potenza non voleva che si scrivesse quel gran, frustando il cavallo come un mulo, quel gran faccia da culo. Questo ci ha fatto causa, stati processati, condannati, avendo dovuto modificare le parole, frustando il cavallo come un ciuccio tra il glicine e il sambuco. Ecco, dimmi tu. Sono gli anni di album come La buona novella e Storia di un impiegato. Così raccontano Mauro Pagani e poi lo stesso De André. Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo, era uguale. Trovo che La buona novella sia un esempio enorme di intelligenza e di pietà, nel senso di pietà, nel senso di amore vero e interesse per il prossimo, per quelli che ci circondano. La buona novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria che si precisava nel paragone tra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Io quando scrivo le canzoni penso essenzialmente a mettere sulla carta quelle che sono le mie esperienze o quello che può essere una lettura filtrata attraverso il mio modo di averla capita, di averla certe volte addirittura immaginata. Lui in qualunque situazione piazzava la camera, si guardava in giro, cominciava un pezzo di racconto, poi spostava la camera e la metteva dalla parte opposta. E quindi ovviamente raccontava le cose e continuava a cambiare prospettive. Lui aveva questo modo veramente di un altro pianeta, insomma, di vedere le cose, di pensarci. E soprattutto di farle capire. C'era sempre una quinta in più, c'era un cielo in più dietro, era la sua dote più grande. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Nel 1973 esce Storia di un impiegato, un disco prettamente politico. Nel 1978 inizia la collaborazione con Massimo Bubola. C'era ancora l'idea che le cose potessero cambiare, c'era ancora una sorta di utopia non chiusa. Mentre in Rimini c'è già un'analisi, non dico dalla parte dei perdenti, però c'è già un'analisi un po' più disincantata per certi aspetti. Questo qua è il mio collaboratore, cioè abbiamo collaborato nell'ultimo disco, si chiama Rimini, il disco, non lui. Lui come si chiama? Si chiama Massimo Bubola. Guardiamolo in tutta la sua, in tutto il suo splendore. Fatti vedere, fai un sorriso. Un lungo flashback sulle illusioni del mutamento, sulle implosioni anche, no, di tante rivoluzioni sociali, sulle speranze che in qualche modo erano un po' cadute, no? Erano anche periodi in cui c'erano anche le speranze politiche che erano state un po' deluse, no? Al di là di una certa crescita, insomma, di coscienza sociale, però c'erano come delle utopie che si stavano in qualche modo affievolendo, insomma. Ma in questa personalità così complessa, fatta di luci, di ombre, generosità, ritrosie, silenzi, allegrie, giochi, scherzi, ci sono anche fragilità, dolori e demoni personali contro cui combattere. Non ho ancora capito bene, malgrado i miei 58 anni, che cosa sia esattamente la virtù e che cosa esattamente sia l'errore. Credo che c'è un gran tormento sulla perdita di valori. Bisogna aspettare di storicizzarli. Io penso che non è che i giovani di oggi non abbiano valori, hanno sicuramente dei valori che non siamo ancora riusciti a capire bene, perché siamo troppo affezionati ai nostri. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. L'ho visto bere quasi una bottiglia di whisky al giorno. Era un po' la sua medicina, al contrario, però lo penso che però sia un gran piacere, onestamente. Guarda, tra l'altro non era nemmeno un gran whisky. C'erano dei cambi repentini di personalità, come se fosse veramente schizofrenico l'alcolismo. Che l'alcolismo fosse un meccanismo per tirar fuori questa cosa. E mai che mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco di voi. Il gesto che in qualche modo salvò la vita a Fabrizio De André fu la promessa fatta al padre il 18 luglio 1985. Il professor De André, sul letto di morte, strappò a Fabrizio la promessa di smettere di bere. Qual è il desiderio che vorresti realizzare? In qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, rincontrare mio padre. Mamma Dodori, Mamma Dodori, quando il cielo è un prato seminato, stelle e fiori, Mamma Dodori. Sole che brilla, per la luna appesa nella stalla, Mamma Dodori per il bacio e per la caramella. Come ha smesso di bere? È diventato un uomo fantastico, che fra l'altro ha usato gli ultimi anni della sua vita in qualche modo per pacificarsi su tutti i fronti. Cioè lui ha sempre avuto un rapporto anche conflittuale, faticoso con la famiglia, con la quotidianità, con i figli, eccetera, eccetera. Invece in quegli anni piano piano ha cominciato ad avere dei rapporti sereni e distesi con tutte le persone che gli stava intorno. E infatti nell'84 De André vive una seconda giovinezza, è l'anno di Creusa de Mâ. Così raccontano Mauro Pagani, De André e poi Ivano Fossati. Creusa de Mâ è un romanzo d'avventure, è come se fosse un libro di Salgari, ma guarda caso genovese, un altro chiuso in casa che non viaggiava per niente come Fabrizio e come me, che io sono andato in Nord Africa un mese in Algeria due mesi prima di realizzare Creusa de Mâ per cercare materiale, strumenti, eccetera. Sono tutto quello che avevamo appreso era figlio dei libri, figlio dei dischi, quindi in realtà è un romanzo d'avventure dove i pirati sono finti, dove le comparse hanno la parrucca e i costumi vengono da... sono noleggiati, no? Un campionario umano che bisogna andarsi a cercare in amonnezza, come dicono a Roma, o in torrimenta, come si usa dire a Genova, insomma, nella spazzatura. Così come la musica era il risultato di un... del miscuglio dei ricordi di un marinaio che è imbarcato da così tanto tempo che ormai è un po' genovese, un po' tunisino, un po' barcelloneta, un po' algerino, eccetera. E così la musica doveva essere una sorta di gramlò, che era il miscuglio di almeno 20 lingue parlate. E poi Fabrizio ha avuto l'intuizione geniale di scriverlo in genovese. Un giorno lo incontrai, aveva terminato il disco e aveva una una cassetta, una musicassetta infilata nella tasca dietro dei jeans. Mise questo è il disco. Salimmo insieme in un ufficio della mia casa discografica, cioè il primo posto dove ci potesse essere un impianto per ascoltarlo. E io rimasi immobilizzato, che non soltanto il disco era geniale a dire poco, l'intuizione era geniale, ma perché finalmente si capì quale utilizzo, quale uso lui avesse fatto del dialetto lingua che io consideravo così poco poetico, che invece nascondeva questa forza, questa potenzialità. E poi abbiamo passato 2 anni in qualche modo a litigare benevolmente, perché io volevo fargli fare un disco in italiano e lui non voleva, non aveva più voglia, perché in realtà lui per la prima volta in Croce de Mar ha affrontato un disco non come cantautore ma come cantante, perché si è sentito libero dal dover pronunciare le parole in un certo modo, libero dal birignao del cantantese eccetera. Lui, se sentite i suoi dischi vecchi, un po' di birignao ce l'ha sempre, no? Tutto un po' impostato, facendo cadere apposta le parole per far suonare le basse, però con un modo di pronunciare molto cantautorale, no? Se voi ascoltate dopo Croce de Mar, il suo modo di cantare è cambiato completamente. È cambiato completamente perché finalmente si è sentito libero di fare il cantante. E lui di fatto era un grande cantante. Una delle più grandi, suoi più grandi doti era questa voce meravigliosa che aveva. Emi, emi, emi, e anna, e anna, e alla, e asciurti. Le nuvole hanno un strano compromesso, cioè una facciata è in italiano, ottocentesca, come volevano raccontare. In realtà l'idea del disco era, in fondo abbiamo velocizzato le comunicazioni, abbiamo centuplicato le strade, facciamo molte più cose, ma l'impatto morale, contenutistico dell'Europa, non è cambiato negli ultimi 200 anni. Non siamo molto diversi dall'Europa del congresso di Vienna. Fabrizio aveva un'agenda e nelle ultime 2 pagine, per abitudine, appuntava cose, anche una frase breve, ma qualcosa che lo colpiva. Da un telegiornale, dai giornali, una frase che leggeva, lui appuntava. E aveva queste 2 pagine di frasi un po' sconnesse, che però, a loro modo, una di fianco all'altra, davano una misura, era una sorta di fotografia della società in questo momento, nel momento attuale. Sono canzoni definitive dal punto di vista della descrizione del sociale, no? Il sociale viene descritto come un campo in cui oramai, come dire, i buoni hanno perso, frasi tra virgolette, nel quale i giochi sono fatti, ecco, i giochi sono fatti e i giochi sono fatti e non c'è più speranza di ribaltarli. E Don Raffaele fa parte di queste canzoni. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al 100° catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti. Don Raffaele è il capoclan. È il padrino raccontato da un secondino che è soggiogato dal carisma dell'uomo di potere. In un mondo dove lo Stato non è riconosciuto, non è presente in parte, ma soprattutto non è riconosciuto, Don Raffaele diventa un'autorità. C'è arrivato tramite una persona di fiducia con questo messaggio comunicato che a Don Raffaele Cutolo, questo il pezzo era piaciuto molto, pezzo peraltro ispirato a una novella da lui stesso scritta in carcere, che per chi vuole leggere la mentalità e l'atteggiamento di questa gente è un imprimatur dato, ma attenzione, è un'idea mia, è un'idea nostra. Io rido di queste cose, non voi. Che trovo perfetto, sta letterario. Era stata la perfetta conclusione di quella vicenda. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di Cicerina e la compagna di Cella, precisa mamma. Dori Ghezzi, che è qui con noi, la ringrazio, la moglie di Fabrizio De André. Ecco, hai detto partecipo volentieri a questa trasmissione purché non ne esca un santino. Ecco, perché? Di che cosa hai paura? Ma esiste questo rischio e penso che lui proprio non l'avrebbe gradito questo. E il fatto di essere così amato, certo, lo farebbe molto sorridere e in fondo sarebbe la dimostrazione che il suo messaggio è stato veramente capito e recepito. Ma quindi, perché secondo te lui non sapeva quanto era amato? Tanto così non credo. No. Assolutamente. Questa è stata forse una sorpresa per tutti quanti, che molti l'hanno scoperto dopo la sua assenza. Sì. Ecco, senti, ma che cosa ti manca di più di lui? Una bella domanda. Questa è veramente l'unica che forse non puoi fare, perché... i suoi testi esistono, la sua voce l'ascoltiamo, ma quella che io conosco, la sua voce, quella mi manca tanto. Dori, sei d'accordo anche tu che è Bocca di Rosa la canzone che gli somiglia di più? Sì, sono d'accordo assolutamente, e del resto lo sto diventando sempre più io Bocca di Rosa, mi ritrovo alle inaugurazioni di strade eccetera, col sindaco, la banda eccetera, per cui insomma, ormai... quindi siamo lì, il discorso del Santino, insomma non proprio la Madonna ma Bocca di Rosa. Beh, Bocca di Rosa insomma, senti, e perché secondo te la canzone che gli assomiglia di più? Ma perché fa abbastanza parte del suo carattere questo voler essere libero e nel vedere appunto la vita in questo modo un po' trasgressivo, cioè lui lo era proprio insomma, e quindi nel vivere la vita proprio in mezzo alla strada, ecco, non nel suo castello dorato dove la era vita nato, di strada, la vita dove c'erano di strada. Gli altri diversi, e quindi insomma, sì, no? sì, direi che la cultura che lui rispettava di più era proprio quella che uno viveva sulla propria pelle, e sì, certo, leggendo anche molto, perché lo ha fatto, era onnivoro in questo senso, ma quella che lui rispettava maggiormente era proprio quel tipo di cultura. Ecco, ma questa passione per gli altri, per i diversi, per quelli che in qualche modo sfuggono al cliché del conformismo, dei ben pensanti, era la reazione alla sua educazione? Sì, in fondo sì, e direi che è stata dura per lui i primi anni, proprio perché era un po' trattato come un cialtrone in famiglia, perché non era serio pensare di fare il cantautore, non era una vera professione. Certo. Direi che poi era negli anni Bocca di Rosa, sì, insomma, fare il cantautore. Sì, assolutamente. Negli anni poi si sono dovuti ricredere, perché in effetti se prima Fabrizio era il figlio discolo del professor De André, insomma, e fratello dell'avvocato, eccetera, illustre, dopodiché si sentivano dire: "Ah, lei è il fratello di Fabrizio De André, ha il padre di Fabrizio De André". Quindi... Ma quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti nel 74, primavera, marzo del 74. E com'è andata? Benissimo, subito. Senti, ma è di lui che cosa ti ha colpito di più? La cosa che ti ha proprio... Diceva Paolo Villaggio prima, era allegrissimo, simpaticissimo, non è vero che era triste? Ma poi è una persona che ti metteva a tuo agio fin dal primo momento, non è che ti trovavi di fronte a questo mostro sacro, insomma, irraggiungibile. E ho avuto la sensazione di conoscerlo veramente da sempre. Da sempre. Sì. Ecco, ma è vero che l'ambiente discografico invece ti aveva messo in guardia su di lui? Sì. Ah sì, ti ha detto quello lì, quello è un delinquente, lasciamolo stare, ti farà del male. Assolutamente. Vabbè, per fortuna che non l'hai ascoltato. Non l'ho ascoltato, ma sono coraggiosa. Ti raccontava quello che aveva in testa, quello che stava componendo? Sì, di notte anche questo, e quindi succedeva che mi svegliava così nelle prime ore del mio sonno, e quindi mi svegliavo di soprassalto, una volta stava presa la tachicardia, per cui ci è rimasto molto male. Cosa c'è? Allora non ha smesso di farlo e ha continuato, ma cercando di consolarmi con un dolcetto, con una cosa, era tenerissimo. Ma il suo difetto peggiore qual era? Quello che veramente non hai sopportato mai, visto che non dovevamo fare il santino, diciamolo, siamo in chiusura. Sai che non mi è... cioè non mi è facile parlarne bene, perché non spetta a me, insomma, elogiare la grandezza di Fabrizio, però non mi è neanche facile dire... No, ma un difetto. Cioè io quando mi ritrovo dico: allora, io ho sposato un uomo che era intelligente, simpatico, bello, ricco, famoso, cioè io non, veramente a volte non riesco a trovare difetti in Fabrizio, ha un fascino tale, e ogni volta che lo rivedo veramente me ne innamoro sempre come dal primo giorno. Quindi il santino lo fai tu, sì, no. Quindi che cosa ti resta di lui? Tutto? Sì, tutto, assolutamente. Grazie. Il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento.